Ah, trattenti. Un trattamento normale. Tappo di disapparato. Tappa. Cos'è? Per farlo andare un po'. Sì. Davvero, ma stessi. Non sono le stesse, però. Questo qua deve andare, ha il diritto di andare. Poi se si rovina, un cagotto. Ogni tanto deve fare andare, lo vedi. Eia, che spettina. Mi sta facendo un computer, ho visto lo smitter girare, allora ho detto, e ci avevi alcuni nomi. Lo c'erano anche prima, c'era Giuseppe anche, e c'era Gianni. A KK, e poi? Poi niente, l'ho chiuso. Ho detto quando entrava a casa andava a casa e io ci ti maledetto gappa. Stavo dicendo, ma stavo ascoltandomi dei brani, stavo ascoltando qua e mi piacciono. Vado al computer. Ma l'hai mai sentita tu Laura Bono? No. In certi brani Luciano Nini 2 ce l'hai presente? Ho capito, aspetta un attimino. Ma ripeti? Nana Nini. Sì, qualche canzone già mi piace. Ma non tutte. Ciao. Così. Più o meno ci assomiglia molto. Capito. Più o meno, va. No, già mi piace già. Capa di positivo e capa oggi, sperando che tu la coppi e capa. Ma è brutta la radio. Ma va bene già. Va bene? Ma che va bene. Di essere usato. Sì, ascolta, senti qualcuno che vuole un VU, sta vendendo, il mio, logo nuovo, VU veicolare, metti 5 in U e 50 in V. Purtroppo mi si finisce, fino a gennaio pure lo ricompro nuovo, me lo compro, bimanda, capito? Senti, qualcuno lo vuole, se è interessato lo sto vendendo. È nuovo, nuovo, la scatola, tutto di nuovo, libretto di istruzioni, c'è tutto, staffa, tutto. Microfono suo originale. È nuovo, ma poi che è nuovo? Sarebbe già da fare, un cazzo. Tu, se mi avevi mangiato due dita, non avevo due, ma qui su cosa mi aiutava, qui su veicolare. Purtroppo sono senza soldi e mi servono, devo andare per forza. Sono questa da buonuricchio, perché io voto, già me ne affutti, tanto, poi su chi fa la frequenza, già me ne affutti, mi sa che mi dirà a me. Gappa. Tutto ora. Tutto ora, purtroppo, non so se neanche se mi accettano la disoccupazione, se non sono inculato forte, scusando il termine, devo qualcosa, cioè devo ricavare perché non vado a pagare qua. Capito, mi sono soldi. Non posso andare furando. Sì, che roba mia me la vendo, già me la futti. Vabbè, ma come ti si chiama? Vabbè. Sentiamo qualcuno. Dove che ti dica? Uia, mi sembra una di vecchia. Allora, c'era un tipo che stava vedendo uguale al mio. Vale, uguale uguale, adesso c'è ancora. Aspetta, te lo dico subito. Aspetta. Allora, chiudiamo qua, aspetta, allora, qualche cosa è ICOM IC, aspetta, ICOM IC 271, ah, cavo. E lì insomma dico, vabbè, vediamo un po', siamo là. No. Cosa si può dire 271? Adesso mi trovo il modello, aspetta, lo prendo. Aspetta un attimo, allora. Lo trovo qua. 207. Adesso 271. Aspetta. Allora. Icom IC 207. 207. 207. Vediamo un po' se lo sto qua. Ah, eccolo qua. Allora. Allora, sto qua vende il comici perfettamente funzionante, ma primo di scatola. Ma primo di scatola è vero. Un costato 200 euro. E dopo tutto quanto, libretto, tutto, 200 euro. La prova, alla prova. Vai lì su, tu prendi questo qua, ma non funziona. C'è qua per sapere la scatola chiusa, c'è anche il numero. Quando il comici 207 perfettamente funzionante, ma primo di scatola, scuola di spedizione, fare che forse pacocciere comprese. Per info contattatemi al 347 3131. Il prezzo dell'oggetto è 200 euro. Poi il cantonio, gaba! Ma già, fallo, senza qualcuno. Se qualcuno è interessato lo proviamo, ma va bene, perché non ho usato poco e niente, guarda. Ultimamente non so neanche accendere, l'ho smontato, guarda. L'ho smontato tutto pulito, c'era un po' di polvere sopra. Ha proprio qualche, non è graffio, sicuramente qualche cosa gli hanno messo sopra, ma non si nota più di tanto. La radio è nuova, nuova, Frontalino estraibile, non è frontalino nuovo fisso. Ma lei si è per un controllo, grazie. Avanti. Guarda come sta uscendo, che ho provato a piazzare in casa questo Milan. Mamma mia, già. Bomba c'è già qua. Come lui? Come già? Non ci ho sentito, sta parlando con mio figlio, non ho capito cosa ha detto. Facendo male? Sta mi piace a me, blu. Sento benissimo qua. Guarda a vedere, Antu, con il microfono lontano. Aspetta, che apro in macchina. Adesso va bene. Perché c'era troppo vicino la bocca. Cazzo, un secondo solo che sto saldando, dai. Questo sento un bel forte. Lo sento benissimo, proprio. Questo è una cosa mia o lui, cioè io magari sento bene perché il baracchino tu senti male perché è quella, non lo so. Cioè, non va bene il discorso. Ah, andato. Ah, pensavo che non andava bene il discorso. Che dico? Oh, niente. Ho detto, io lo sento bene, tu lo senti più male, non lo so. Non ho capito la tua, scusa. Ecco, che tu lo senti più male, io lo sentivo bene. Se sei unico lo sentivo bene, se lo sento bene dico lo sento bene. Cioè, mica quando lo so attaccato alla bocca, non lo sono accordato, lo sentivo benissimo. Scappa. E già, però ti stavo dicendo, anche quando c'era io lo sentivo molto forte, lo sentivo, però non sentivo nessun disturbo. Evidentemente quelle radio hanno un po' di sensibilità. No? Eppure, so io non posso dire una cosa per un'altra, se dico ti sento bene, ti sento bene, se dico ti sento male, ti sento male. Non posso più contare nessuno, altro, capito? Tutto qua. Come ha ascoltato la bocca al microfono sentivo bene. Sì, gamba. Ma ti ho detto, io ti ho detto questa cosa qua. Evidentemente quelle radio le ricevono così, cioè magari le ricevono troppo forte e ti fa sentire male. Invece questa qua c'è un altro tipo di ricezione, tutto qua. Non ti aiuto chi sei tu. Cava gamba. Aspetta un attimo, ecco qua, maschi. Ma va bene, Gianni. Va. Chiama... Non ha mai chiesto Luca se ti biglianea. Allora fa rubante. Cosa? Non mi hai chiesto se ti biglianea fa rubante. Ma dov'è? Qualche posto. Io ho giocato un malattia di banni. Diciamo che più quel palettiere, vabbè, ma così la mi arrangio, dai. Lo trasportate. Lo portavo, lo aiutavo a farlo anche. Che fagazza. Te sei andato, ti avevi rotto le palle. Ma aspetta un attimo, non ti sento, aspetta. Aspetta, la musica non sento, aspetta. Se fa tu hai. Sto mettendo tutto a posto, un secondo. Già, mi hai chiamato? Stai facendo qualcosa? Stavo saldando. Ma stai ancora saldando? Finito, ma sto mettendo a posto la roba, aspetta. Ma qua non c'è problema. Sto già. Un attimo di pazienza, perché se no non ce la faccio. Fai, tanto io quando vedo lo smitter andare già, si chiama, stavo ascoltando dei brani in cuffia, dai. Non so ancora conservare nulla, che ci sono andato a recarlo. Non so ancora conservare nulla. Non so ancora, ma è caldo. Vedi, c'ho lo stesso. Non fai a fare. Un po' di brani mi stavo ascoltando. Hola, abbiamo preso la postazione. Oh, via! E anche tu? Tutto un casino, là. Mi sono rimesso tutta la stazione a posto. Ho messo di nuovo il Midland, il 48 plus. Con la commissione è andata, sì. Sì, si è arrivato e glielo ho già dato. Già dato? No. Certo. Quello di petto. Pisce al volante. Solo perché non sono riuscito a capire. Quello di Giuseppe è arrivato. Vero? Sì, ma gli ho telefonato io però, per fargli il caffettone. Me l'ha mandato subito. No, glielo spedisco, guardi, due giorni lì. È arrivato. Capito. Giappa. Cazzo. E poi è riuscito questa parata, non hanno fatto nulla. Giappa, la parata è sempre così. E vabbè. Lo prendi. Lo fa da qualcuno qua e ci cerca il prezzo. E infatti, ti do le barco, non è così facile tu cercare il prezzo. È un po' un problema. Un problema. Perché questo deve arrivare dall'America. Vabbè, ora già ce l'avranno. Bisogna vedere. Se no te che la comunicazione l'avrebbe fatta, se aveva il pezzo l'avrebbe aggiustato. Ho parlato con un'altra persona, io mi ha detto che secondo lui non è frequentemente da cambiare, ma un altro pezzo. Certo che quello si trova facilmente. Si trova facilmente? Sì, sì, si trova facilmente, però riesco a trovarlo. Se non prendete nulla è tanto stanca. Ha detto che speriamo che non l'abbiano messo mano su e l'abbiano rovinato, perché sennò è un casino. Speriamo che non l'abbiano pasticciato, ha detto. Se è in ordine io lo guardo, ma è che mi accorgo cosa c'è. Capito con chi hai parlato? No, non hai capito. Allora, no, non so tu a chi hai capito. Quello che conosciamo anche noi. No, non lo conoscete né voi né io. Allora comunque fa pensare. Roberto. Capito. Ah sì. Tu le modifica gli apparati. Tu è in grado? Sì, sì, ha detto che ha fatto dei Pluto, ha cambiato frequenzimetria Pluto. Galaxy, insomma, ne ha cambiato parecchio, ha detto. Interessante, ha detto che non sia frequenzimetro, se è quello che dico io è facile, ma se il frequenzimetro non me lo dai io non te lo posso cambiare, ma è se da cambiare. Ma io dice penso che non sia quello, possono essere mille cose. E loro sono andati direttamente a quello libro. No, forse sia quello però. Vabbè, il capo non penso che sia, cioè, con tutte queste messe che abbiamo oggi, il capo non si può cercare un frequentimetro. Cioè, ma stiamo scherzando, sicuramente che sta, lo fa carezzare. Non ti preoccupare, già facciamo un frequentimetro. Perché? Quindi lui è in grado, cioè lo fa. Se lui ha aggiustato tutti i apparecchi, interessante che gli dai di nada a voi, ma c'ha tutte le attrezzature per aggiustare, c'ha l'oscilloscopio, c'ha cosa per le frequenze, insomma c'ha un po' tutta l'apparecchiatura. Ma è tu che è un tecnico, devi pure ordinarsi delle cose. Cioè, un frequentimetro, se ci vuole, lo deve comprare. Tanto, i frequentimetri non sono cose che si sfasciano ogni giorno. Puoi avere un diodo, un transistor, puoi avere modulatori, ma non... Cazzo, i frequentimetri costano una bacca di dinamica, tu non è che li puoi comprare. Poi, ci sono frequentimetri e frequentimetri. Bisogna vedere anche tu che incastro c'ha, tutto quanto, bisogna vedere tutto, quanti piedini ha. Gamma. Io lo chiamo, già le sa queste cose, lo devi fare tu l'apparato, no? Di stagare. Ma penso che sicuramente non è neanche il frequentimetro proprio, sarà che Dio lo fa tutto sicuramente. Ma ha detto che quando impazzisce così non è il frequentimetro. Ha detto, sta sbagliando che te l'ha detto. Mi auguro solo che non abbia messo mano, apritelo prima di mandarmelo, perché non è che poi vi ha fregato qualche pezzo, qualche cosa e voi lo aprite con me, apritelo prima. Ma è inutile che lo apro perché tanto non me ne intendo, già, a meno che si veda. Non vieni coerto, devi abbaitarlo questo. No, ma non penso che abbiamo toccato niente. L'hai provato a accendere. Se fate come te prima non hai toccato nulla. Questo apparato secondo me manco toccato grande. Io non ho provato niente, lì che è mio l'apparato. Io l'ho dato al padrone, il padrone provvederà ad aprirlo e a fare quello che deve fare. Io l'ho dato col cartone sigillato. Gappa. No, proprio pensavo che... Però sicuramente qualche cazzata, alla porta glielo fa sistemare. Ja, ma tu dopo che hai fatto quel casino là, che non ha megavato bene, che sai? Secondo me se ne sono un po' fregati, perché in 4 mesi avevi tutto il tempo di andare anche a altre ditte e chiedere a vedere se ce l'avevano questo frequenzino. Se non è che la chiedi solo una volta, poi aspetti che te lo mandi, quelli lì rinviano, fanno, e tanto però il frequenzimetro non l'hanno cercato da altre parti. Se magari invece vedevano un po' da tutte le parti dove ce l'avevano, come faccio io? Se mi serve un apparecchio, vedo che c'è lì, vedo che c'è là, eh? Se per dire ce n'è uno solo e cose, io ancora non cerco di ordinarlo, se non vengono io c'ho l'altro, capito? Poi faccio i confronti, i prezzi, tutto l'altro, bisogna stare un po' attenti, gli stessi apparecchi ci sono persone che li vedo 30 euro di più. Ma finché è quello 10 euro, se conosci la persona e cosa di Naputi, pagando zombie allora quanta più bene. Se conosco che chi è una persona affidabile e tutta cosa bella, cioè, me ne infischio, cioè, te lo prendo lo stesso. Ma io ti dico una cosa, sto ancora lottando per quell'alimentatore, non riusciamo a beccarlo, lo sai. Ma è furato? No, furato no, loro dicono che abbiamo sbagliato l'indirizzo, ma non è vero. L'indirizzo io ho messo Tecno Comunicazioni, via delle Forze Armate 41. Lo so bene perché l'ho scritto io, quindi. Ho detto guarda che mi dicono abbiamo sbagliato, siete voi che state sbagliando. No, non è possibile, se non ha trovato il corriere e l'ha portato indietro vuol dire che qualche cosa c'era. Ho detto guarda che è un negozio, poi anche se non avessi messo il numero, come dice lei, che forse non c'era il numero, anche se mi sono dimenticato di mettere il numero, ti tecno comunicazione, non penso che li sia a 6 che sa via. Scappa. Beh, se non è arrivato che te l'hanno furato. Oh, già risulta il pacco risulta in restituzione. Ma da 20 giorni fa però. Che doveva ritornare a me. Io c'era il mittente, loro rispondono al mittente quando c'è qualcosa sbagliato. E invece non mi è arrivato né avviso né pacco. E magari vuole voler che abbia pagato. No, Anto, aspetta un attimino, io gli ho chiesto posta accelere 3. In 3 giorni il pacco doveva essere lì. Siccome non gli è arrivato, adesso mi faccio dare il rimborso anche dei soldi, perché non per i soldi in sé, ma per principio. Abbia da fare un culo. Cioè è arrivato dopo 5 giorni a Milano e dopo 5 giorni non sono riusciti a trovarlo. O se ne è sbattuto il corriere, magari c'è un bel affare in quei giorni, ha detto che non esisteva l'indirizzo e è andato dritto. Che amici cose vecchie. E allora quanti bisogna fare? Adesso voglio andare via 25 aprile dove arrivano tutti i pacchi. E chiede se ce l'hanno lì me lo ritiro e poi lo risperisco. Solo che la garanzia è al culmine, sta quasi per scadere, va a finire che poi mi scade la garanzia e non me lo diciamo bene in mano. Ciao. Lo diavolo. Quello è il rischio della roba spedita e altro. Già. La responsabilità vorrebbe testa loro. E se ce l'ha assicurata, sì. Come viene assicurata la roba? Ma comunque lo sai che quello, come si chiama? Ma quello dove avete comprato anche i commutatori? Beh? Mi ha fatto pagare manco 5 lire di spedizione. Vero? Mi ha regalato anche un microfono. Siamo. ma il tuo è arrivato. È già arrivato, già piazzato tutto. No, ho sentito. Io ho chiamato stasera e... Già va bene, già è bello. Ciao, microfono. Che quando parli c'è della lucetta rossa. Non è amplificato, ma è... elaborados. Ma forte, cioè. Io non mi sono sentito tanto, non lo so. Non vorrei sentirlo. Mi hanno detto di sì, Luca e Giuseppe, che gli è piaciuto molto. Non lo voglio intendere. Ma riesce bene, a fare l'ascolto, me ne accorgo. Gamba. Lo voglio sentire in trasmissione. Io te lo faccio sentire, quando ci sei anche tu, un giorno te lo faccio sentire. Gava gava. Comunque, se mi fai un colpo di telefono, non ci ho credito, se te avrei chiamato io, dico una cosa. Gava gava. Dai, già, io ho voglia, già l'ho caricato, là, passiamo. Come ratta, come soldi, come convenienza ce n'è? No, a me non mi va bene, non mi va bene, soprattutto su internet mi ci viene, la tariffa è buona e parla grande, perché sì, come tariffa di chiamate va abbastanza bene. Certamente come messaggi no, come messaggi di pagare, è più buona la moda come quei servizi lì. Però su internet qua, perlomeno qua, sono le più valide, sono la Wind, la cosa, come cavolo si chiama, e la 3, le più che vanno forte. Era un pacco Antuf a Centromercato che pagavi non so quanto, ti davano sia la pennina per internet di cosa, di 3, il telefonino, non so cosa si pagava, una cazzata però. Come la 3 fa cagare, come tariffe telefoniche fa cagare, solo su internet è valida, ma come tariffa telefonica, mamma mia, se mi dimenticato. Sì, ma là dentro questo amico mio, pure lui sa anche girare la cosa, dice poco veloce, va bene. Però come tariffe telefoniche no, non serve a niente, sono traffico in internet. Ah, mio collega ci ha preso l'iPhone 4 con la 3 e praticamente paga la bolletta, paga 23 euro al mese e ha il telefono tranquillamente per tutto il mese. Conviene. Avrò poi il telefono, se quanto è bello. Un accomodato d'uso mi pare che lo danno, Devi pagare 23 euro al mese di telefonate. Punto, non devi fare altro. Che è buono. Anche se è una ratta, anche quella. Non voglio una ratta. Perché è fissa, capito? Di mese è fissa. Invece quando c'è il telefono da ricaricare, se ne hai a ricaricare, se non ne hai lo lascio. Tieni conto che quelle pennine sono ricaricabili, è la stessa cosa. Se tu nel mese non vuoi mettercele, non succede nulla, non va al servizio e basta. Sì, ma non ti scadono? No, scadono, dopo un mese scadono, non c'è servizio. Poi quando ti rimetti i soldi e via. Ma tu finito o non finito ti scade lo stesso. Sì. Allora praticamente è fatta così, è fatta. No, 100 ore. Se ogni mese, se tu non li hai finiti, devi prenderti altre. Se ne avanza non mica dura un mese. Se ne avanza spesso, se ne avanza. Cioè, ti dura per forza, a meno che non sai notte, giorno e cose sempre andente. Cioè, te ne avanzano anche dei minuti. Beh. Dico che conviene un bel. Va. Noi ce l'abbiamo così la chiavetta. Ma io non uso mai chiavetta perché anche l'altro giorno, quando è il giorno di Natale, abbiamo portato il portatile a casa di mia suocera perché c'erano delle foto, dei filmati che avevamo fatto e non li avevamo visti e li abbiamo portati per farli vedere. E poi quando abbiamo finito sono entrato su internet, c'erano 3-4 ragazze e 3 ragazzi. Beh, tanto io sono entrato con wireless e sono entrato tranquillamente su tutte le pagine di internet. E come hai fatto a prendere su internet? Hai sbroccato? Scappa. Da chi non ha protetto. Cazzo. Certo non c'entrano. Se c'è la protezione. Già lo so. Ma c'è sempre gente che non lo sa. Io già ho il soggetto, posso stroccare. Cappagato. Ma io prima ho preso la parrucca. Poi. Cappa. No, vabbè, no. Non ci abbiamo fiscale qua. Quindi no, non ce n'è bisogno. Fiscali dove va? A bomba, Ma che... sul coso, sul PC? Eia! Non si ammette cosa? Tutto compreso, Un pacchetto, che quello lì. Ma c'è dentro una parola. E già lo so. Va benissimo, ci portiamo la mano. Ce l'abbiamo già da un pezzo, l'abbiamo. Ma guarda, non ci possiamo lamentare. Poi si sa che la fisca di... qua lavora bene, perché siamo in Sardegna. Che cosa vedi? Ventra. In un momento si ventra. Non è perché lui è stato che dobbiamo dare il fisco di aiuto. Se ti devo ti offri di più, come non spesa, facciamo quello. Non hai capito nulla. Allora, qua funziona bene, perché prima di darlo agli altri, agli altri punti, prima è no, cioè praticamente se tu devi passare dal fiscale, fiscale qua, è solo fiscale, non è Telecom associato con fiscale, no, qua è tutto fiscale, non è come quello che hai detto tu. Non paga. Visto com'è. E bisogna fare roba dal vivo. Vivo. Suonare, cantare, mi piacciono queste cose. Che cazzo vengono? Non cazzo. Come entra questa la telefonia? Onda. Che mai tu? E beh, mi fa vedere roba del vivo di telefonia. Telefonia, ma qui pensavo avessi finito il discorso. Chi ti piglia? È un messi. Quando sono gutracco mi fai regalare i drummi, mi piglia così. E lo sai? Gappa. Uia. Tanto vado da un momento repaccati la mano, fai sbaglio. Ma sai cosa ti devi mettere? Mercurio cromo. Non mercurio cromo per poco. Sì. Vai. All'interno delle finite ti metti mercurio cromo e te le fa asciugare. Sì, ma poi ti impatta tutto, va del casino. No. Non fare casino, scusa. Quello ti ha sporcato un po', se ti lavi le mani o cosa sì. Cappa. Sul punto quando comincia il freddo succede. Quando ti mangi le unghie e la pellicina. Oh, a me mi si spaccano i calli, mi sa prendere la mano. Cappa, cappa. Maledizione, è micidiale quel ferro. Quale ferro? La bombola. Pesante, so. Cioè, praticamente quel ferro lì ci spacca proprio le mani, cioè, quel freddo. D'estate non succede, ma l'inverno è micidiale. Gappa, gappa. Lo so fare anche a me qui, meglio di me che ti può capire. Me lo fa sotto l'unghia a me. No, a me me lo fa proprio nei calli. Io. Caldo. Niente. Quindi l'ha già bossato una da Vinci a un quattro piano a fede. La Bodeghizzo però c'è una scala a salire, c'è la a chiocciola, una faticaccia. Ma in porta ci vuole a salirla così. Siamo a Dromede di Z. Io? Ma soppendo. Ah? Soppendo. Siamo, ora ti do la buonanotte. Non so come voi. Io sono un bestato, dico la verità. Chiappa, sei pulito già lavorato. Sono una grandissima stanchezza. E tu sei 30 anni più giovane di me e in più magari adesso non c'è più lavoro, stasera c'è un poco lavoro, invece ne abbiamo un bel. Sì, già me ne ho fatto già, non avevo poco lavoro. Vabbè, già, lo so. Faccio una cenetta adesso. Ah già, sentimi bene. Cosa? Giova. Ma ebbene, ricordo il ciso come sta andando? Boh. In passato. No. Pur facendo questa. Sì, quello sì, sempre. La macchina sta lavorando sempre anche per l'ospedale. Che ho pagato. L'ho fatto 15 l'altro giorno di mattina. È la sera che si lavora poco. Vabbè. Quelli sono il futuro della stazione. Chi? Forti. Adesso le associazioni di Cavano sono la Croce Blu, Fresh Soccorso. Insomma, venisci un bel soccorso sardo. Le più che vanno sono la Croce Blu, soccorso sardo, la Misericordia. E anche se sei soccorso prima. Sì, ma non come loro, no. Vabbè. Comunque, se sei soccorso, io la stimavo un bel. Come lavoravo prima, adesso no, quando c'era Babbo ha pagato, io lo so, adesso tutti quanti per la pagnotta lavora. Certo, purtroppo quelle cose sono andate male, la gente è poco seria. Già se ne prendono le cose. Io di fare una ciampiere non ne ho voglia. Chiede? Che senso? A chi non l'ha mai fatto non ne so come va. Che tu mandate mo al ciampiere? Paga. Beh, tu, io ti saluto, va. Se no dico un bel cazzate e non mi capisci. Guarda, buono. Tanto, buonanotte, stavi bene. Ah, è buon anno perché domani non ci sentiamo, va. Ah, buon anno anche a te. E anche a me, quindi auguri, ciao. Ciao, ciao.